una casa tu ce l'hai. Hai una donna, una famiglia che ti tira fuori dai guai. Ma tutto quel che voglio pensare è solamente capisce perché è sola e tutto quel che cerca e che vuole è solamente amore ed unità per noi e meritiamo un'altra vita violenta e tenera se vuoi. Bruciato la sua laurea, vive solo di